vino. Ti pazzo, ti pazzo! Troverò la maniera, forse ben io, di dare piacere a tutti. Non posso soffrire, non posso soffrire. È un peccato davvero che si apre così poco fra loro acceso un sì terribile fuoco. Lo sento, ma c'è il sento morire, ma c'è il sento morire, sento morire. Se non voglio più farli, anderò via, servo di lor signori. Dove andate? Non mi vogliono udir. Su via, parlate. Tutta questa gran lite, tutto questo gran sdegno proviene da un impegno. E lo voglio così. Ma così sarà. Piano, per carità. L'impegno a quel che io vedo è che ce l'abbia quello che all'uno e all'altro per destin s'oppone. Non l'avrò d'indone. Chi non l'avrà d'indone? Se Titta non l'avesse, eh? E non l'avesse Mingo, e tante tanto Dorina s'accasasse, se la si maritasse, per esempio, con un fuor di coloro, ne resterebbe ognun col suo decoro. Può che il Mingon se ne vada fuori di casa mia, e dati in mano alla giustizia sia. Vuo che lo sciagurato del Titta per lo men sia bastonato. Va bene, io son contento che un simile complimento allor si faccia. Ma Dorina però, la poveraccia, per causa di color che han fallito, dovrà dunque restar senza marito. E si mariti pur, che importa ne? Lo faccia, se Mingon quello non è. L'occasion ci sarebbe, e presto si potrebbe stabilirla. Che dite? Chi vi par? Voglian finirla. Il marito chi è? Vuo che gli piaccia a me? O che sia qualche birbon. Egli fosse, per esempio. Via, per esempio, chi? Ma non ci fate più penar così. Se chi amasse Dorina i casti amori, per esempio, il fattor di lor signori. Voi? Perdoni. Ma sotto. Servitore. Che caro galantuo. Caro fattore. Non vi dico per or né sì né no. Non vi disovo ancora. Ci penserò. Se per esempio avesser da risolvere prestissimo, per me sarei prontissimo. Questa sera potrebbe sì. Le nozze sono all'ordine, l'occasione è sì comoda che si potrebbe, per esempio, eccetera. Che facciamo, moglie mia? Voi, che facciamo? In pace ritorniamo. E si sposi Dorina con Masotto. Sì, ma di casa vado via di botto. Perché? Perché confesso la debolezza mia. Vamo, e figlia d'amore, e gelosia. Thank you. E dir la verità, la contessa amorosa, compartirla convien se la è gelosa. Mi discosi una volta questa guerra fatal. Così Masotto Dorina se la vuol, qui varan via. Non vuo più guerra con la sposa mia. Prepara le nozze, preparati la danza. Io d'esser lo sposo ho gran speranza. Davvero, venerai per con voi sinceramente. Ti tappisti mi so e lasci zu haben. La madrona la vinta. Come fa? Oggi i mariti non comandan più. Quel che le moglie vuole si si far per ordinario nelle case, ed usan queste frasi per farsi rispettar. Voglio così. Guai marito che non dice sì. Se mai se non fosse per lei, per un milione non vi sposerei. Ma perché? Perché non mancano per me buoni partiti, non mancano mariti a una mia pari. Ma gli uomini come me sono un po' rari. Guardatemi la gioia, ne ho di meno di voi, ne ho più di sei. Se mi volete, non vi degnerei. Ehi, voi dite così, perché, perché? Peraltro, già lo so, se averla se poteste, di questa gioia voi vi degnereste. Even no. potesse, ma se ci dicessi, a farmi un altro scherzo per vendetta. Vengo a dirvi di vietta che oggi Dorina si sposa in bambinette. E chi lo sposo? Eccolo! A voi presente! Come voi? Sì, sono io, lo sposo fortunato, che fra i due litiganti ha guadagnato. E i padroni? I padroni? M'hanno in questo momento assicurato il loro consentimento. Si faranno le nozze in questa sera. Questa sera si fanno. Così si spera. E zitta. Sarà vostro se volete. Ma vorrei. E non vorrei. Che dubitate? Un rifiuto sposar. Non gli abbadate se vi piace. Pigliatelo, figliuola. Dunque lo piglierò, per non star sola. Ma Tito lo vorrà. Sì, certamente, fidatevi di me, vostro Cupido oggi Titta sarà. Di voi mi fido. Credetemi che io sono un uomo di buon cor. Quasi vi credo, in effetto lo vedo quanta bontà per favorirmi avete. La mia consolazione solo voi Oh! bellissimo, quindi la sposerà. Mancami adesso a concludere con me le nozze di Dorina. Eccola, a me. Dica, signor fattore, questo bell'apparecchio che ha ordinato, per chi l'ha preparato? Per voi, Dorina cara, per voi tutto, tutto qui si prepara. Per me, lo sposo mio, chi sarà poi? L'ho da sapere anch'io. Lo sapete, furbetta, e ve lo ridico ancora. Sposo sarà Masotto che t'adora. E risponde la furbetta che sposata da lui sarà Livietta. Perché? Perché ho sentito e veduto, signor, quanto mi basta. Oh, questo è un altro di menar di pasta. Livietta è perché vuol marito, ma io... Non più parole, sentito le espressioni tenere delicate. Dorina, vi ingannate, quelle espressioni per me non hanno vero un costrutto. Andatevi di qua, che sono tutto. Credetemi, Dorina. Razzuccia malandrina, bell'azione codesta. Perché venirmi a rompere la festa? Ma non andate in collera, sentite la ragione. Andatevi di qua, siete un bricco! Bene, me ne andrò, la riverisco. Oh, ich wüsste mich. Oh, ich leid. Che mai l'avrebbe detto? Chi credo la mia? Ma sotto traditor! Signora mia, eccomi! Ma chi ha amato? Signor... no. Dunque, me n'andrò. Chi vi trattiene? Ah, mi sento morir! Mi sento in pena! Donne, donne, vai! Uomini, e poi non più! Nenna! Compassione non mi fu, né mi sarà. Non occorre sperare più fedeltà. Ma io mi sono stato e mi sarò fedele. Siete un ingrato. Per me no. E lo dicevo perché? Per me no. E lo dicevo perché? E di zitto innamorata. Che non sa dir di nozze serva questa roba. Io so la bocca asciutta son restato. Chi ad un zorro si cominci e